piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. In quei giorni a casa nostra la radio era continuamente accesa. Mia madre, per esempio, non si perdeva mai il suo programma preferito, Colazione con Irene Roger. Buongiorno, caro. Passami il succo d'arancia, ti prego. Eccolo. A che notevole prima siamo intervenuti ieri sera, vero? Oh, sì, non è stato divino, c'erano proprio tutti, da Rogers e Hart a Colporter. Sì, caro. Il mio programma preferito era qualcosa che si chiamava Il Vendicatore Mascherato. Eroe che nella mia fantasia era un incrocio tra Superman e Cary Grant. Quanto ero ignaro. Benchley con me a sua salvaguardia. Il Vendicatore Mascherato! Ed è la galera per te. E spero che tu non abbia prevenzioni per i vestiti a strisce. Oggi non vi chiederò di parlare, ma vi chiederò di ascoltare. Oggi è una puntata in cui faccio un punto di riflessione al liminare del fine di una stagione radiofonica, una delle tante, e sono tante. Devo dire che dal 1983 ho delle stagioni radiofoniche, un tempo interminabile, un mucchio di anni che non voglio nemmeno calcolare in quanti giorni sono state, quante ore di diretta, quanti collegamenti, quante gestite da me individualmente, quante insieme ad altre persone, quanto è stato il cammino per cui a un certo punto ho cominciato a considerare il tempo più importante della mia vita, il tempo che io sto seduto davanti a un microfono con la compagnia della mia voce, con questo sortilegio che probabilmente non a tutti è dato di conoscere, di avere il riverbero continuo, incessante, costante, del rimbalzare della propria voce all'interno delle proprie orecchie, seguendo un percorso che sembra voler precedere e allo stesso tempo inseguire i pensieri, arrivando a una sorta di automatismo per cui non riesci più a definire, come io in questo momento sto sperimentando di persona, se la scaturigine prima di ciò che dici sia il pensiero che genera la parola o sia la parola che poi trova un suo riscontro e conferma nei pensieri che in realtà combaciano con l'emissione sonora di ciò che io ho pensato. Questa è la formula essenziale che riassume un contatto radiofonico. Perché vi faccio questo ragionamento molto centrato su di me? Ma perché sì, a un certo punto uno deve fare i conti con il proprio pubblico mettendosi a disposizione delle persone che ti hanno ascoltato per tanti anni, in questa emittente per tantissimi anni, ma prima ancora per un numero quasi paro di anni in altre emittenti nazionali, sempre parlando, ragionando e prendendosi il peso e la responsabilità di essere mediatore di qualcosa che accade nel mondo, riflettendo sul fatto che un numero grandissimo di persone mi ascoltano e in questo momento sono io a dare loro delle chiavi di interpretazione e di lettura su fatti a volte molto importanti, a volte apparentemente trascurabili ma allo stesso tempo significativi, che accadono nel mondo. Io, in quanto giornalista, come tutti i colleghi che stanno davanti al microfono di una radio, siamo i mediatori di quello che accade nel mondo. Siamo attraversati da un flusso di accadimenti che attraverso il nostro corpo si trasformano in vibrazioni sonore mediate dalla contaminazione con il nostro punto di vista, il nostro pensiero, il nostro modo d'essere, e poi si trasformano in trasmissioni radiofoniche. Ora, il concetto stesso di trasmissione radiofonica è un concetto apparentemente molto antico e obsoleto. La radio suddivisa e scandita in trasmissioni appartiene probabilmente a uno schema produttivo che probabilmente è segnato dall'usura che se n'è fatta nel tempo. Oggi le radio di maggior successo non sono radio fatte di trasmissioni ma fatte di trasmettitori. Per trasmettitori intendo non gli apparecchi di trasmissione ma intendo esseri umani che trasmettono qualcosa, non incasellati necessariamente in una gabbia così rigida di un palinsesto, di una sigla, di un orario ricorrente, ma semplicemente persone che hanno qualcosa da trasmettere, persone che per lo stesso meccanismo che vi dicevo prima si impregnano di realtà, cercano il più possibile di attivare alcuni ricettori sensibili nei confronti di ciò che accade e cercano di trasferirlo, raccontarlo, mediarlo, fanno argomento di riflessione. In modo particolare io faccio un tipo di radio che oggi diciamo non è fra quelle che sono maggiormente praticate. È una radio interazione con il pubblico. Io nasco con questo tipo di radio. La mia prima esperienza nel 1983 con una trasmissione storica della radiofonia nazionale, non che questo in assoluto voglia dire nulla, ma diciamo la storia mi ha in qualche maniera lambito, la storia della radiofonia. Io mi sono formato pensando che la radio era una modalità di grande responsabilità individuale, ma che fosse animata, basata, ispirata dal concetto che una vastissima comunità di radioascoltatori diventassero il tessuto connettivo, l'estensione, la rete delle tue curiosità disposta e disponibile su un territorio. Ora, questo è un principio che mi è stato trasferito da chi faceva prima di me questo lavoro a metà degli anni Ottanta, in un momento in cui la radio stava cominciando ad aprirsi alla cosiddetta emittenza privata. La radio nazionale, sto parlando e sto riferendomi a questo modello, Radio Rai aveva una trasmissione che era l'edizione notturna di 3131, che per la prima volta proprio in quell'anno in cui io cominciai si aprì alle cosiddette radio commerciali, radio private. Ogni sera gli studi di Radio Rai 3131 notte si collegavano con una radio privata, una radio comunitaria, una radio parrocchiale, una radio che aveva sempre la denominazione International, anche se poi magari era una piccola radio che trasmetteva dal cucinino di un appassionato di radio che in qualche maniera metteva dei dischi e con un ibrido telefonico, ibrido è l'apparecchiatura che mette in contatto un telefono con uno studio radiofonico, faceva domande, faceva delle dediche, poneva dei problemi, faceva anche delle veementi operazioni battagliere rispetto a una realtà che cominciava ad avere delle mutazioni drastiche come negli anni Ottanta. Quindi io, pur stando nel Sancta Sanctorum della radiofonia, nel luogo della massima tradizione della radio nazionale, con un programma che ha fatto la storia della radiofonia italiana, 3131 è il primo programma che ha aperto un canale di intervento al pubblico, che è una cosa delicatissima ed immaginabile se si colloca in un periodo storico in cui era ben netta e definito il confine, la linea di demarcazione fra chi comunque si poneva come mediatore della realtà e chi dal proprio apparecchio domestico era fruitore della realtà mediata. Beh, il 3131 per la prima volta trasformò l'ascoltatore della radio in carne palpitante, materia stessa della emissione radiofonica. Guardate che non è cosa da poco, in quegli anni c'era veramente una grande difficoltà a immaginarsi all'altezza di poter articolare un pensiero alla stessa stregua, perlomeno a confronto, con un giornalista del servizio pubblico che apparteneva a una sorta di dinastia di semidei, e nulla avevano a che fare con l'umano, erano persone che si trovavano nel più importante, ineffabile dei luoghi in cui si produceva il pensiero, si produceva l'opinione. opinione, in cui la politica aveva la sua eco e anche probabilmente il suo megafono, in un'epoca in cui la politica era molto poco definita in sfaccettature che la differenziassero. Erano uno, due, tre grandi orientamenti che venivano espressi, infatti ognuno aveva a disposizione una rete televisiva e quindi anche una rete radiofonica. Io lavoravo prima a Radio 2, poi dopo al giornale radio a Radio 1. Radio 2 era la rete delle famiglie, era una rete diciamo di appannaggio democristiano che doveva in qualche maniera occuparsi di un pubblico familiare che ancora aveva la necessità di essere in qualche maniera educato secondo quello che era la vocazione e l'ispirazione della RAI di Bernabé. Infatti i miei diretti dirigenti erano tutte emanazioni, figli professionali e spirituali della RAI di Bernabé, erano persone di squisita sensibilità, di grandissima professione, di cultura, di raffinatezza. Mi insegnarono la differenza fra un lavoro mal fatto e un lavoro fatto a regola d'arte, la ricerca e il gusto per gli elementi di differenza e di originalità nella realtà piuttosto che quelli di omologazione, la curiosità della contrapposizione, del confronto con persone che hanno delle differenze di punto di vista e di opinione, il rischio di mettersi in gioco ogni giorno senza filtri, senza reticenze, senza schermi di protezione. Alla radio devi metterti in gioco. Il mantra che mi veniva tutti i giorni propinato, su cui dovevo esercitarmi i miei primi anni di conduzione radiofonica, di esercizio radiofonico, era: devi saperti mettere in gioco e devi dividere il pubblico. Altra fondamentale nozione di cui ho fatto tesoro, mi darete atto voi ascoltatori che tuttora faccio ampio esercizio. Dividere il pubblico vuol dire non essere simpatico, non mirare ad essere simpatico, non fare il piacione, non essere accondiscendente, avere il coraggio e l'intrepidezza di difendere una posizione, non cercare l'obiettività. L'obiettività è un'illusione, l'obiettività non esiste, l'obiettività non è un obiettivo da raggiungere per un conduttore radiofonico. Il conduttore radiofonico fa un mestiere. Il mestiere ha alcune regole perché il tuo lavoro sia ben svolto. Il lavoro è ben svolto quando tu comunque riesci a dare una nota distintiva al tuo prodotto, riesci ad avere un prodotto che abbia un mercato, e indubbiamente ha un mercato dal momento che tu lo continui a fare, quindi evidentemente, visto che nessuno ti può imporre, nessuno può essere obbligato a farti lavorare, se lavori evidentemente il prodotto che fai ha un suo mercato. Il fatto che abbia un mercato non significa essere un prodotto ruffiano, accondiscendente rispetto a chi ti ascolta. Può essere una modalità che funziona, una modalità che ha successo, ma la modalità che a me hanno insegnato è quella: devi dividere il tuo pubblico. Tu dovrai avere una parte di persone che ti ama la passione, che non aspetta altro che di ascoltarti perché pensa, immagina di trovare un riverbero del suo modo di pensare nelle tue analisi, in quello che tu dici, è una parte di persone che egualmente ti ascolterà perché ti odia, ti disprezza, gli sta antipatico, non tollera quello che tu dici, non riesce a sopportarti, vorrebbe schiacciarti, ucciderti, soffocarti, sopraffarti, ammazzarti, ma comunque ti ascolta. Ecco, se tu tieni fermo questo principio, forse farai una radio accettabile. Questo mi veniva detto nel 1983. Mi fermo un istante, ma metto le mani avanti, avverto, sarà così fino alla fine. Chi fosse annoiato, sopraffatto, tediato, sappia che così andrò avanti, senza fermarmi e senza cambiare, fino alla fine di questa puntata. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Questi erano gli Yardbirds. Ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami? Mario. Ciao Mario, come stai? Come sto? Sto male. Ha una carica molto negativa oggi, eh? Diciamo che al limite sto così. Però io sentivo che le risate tue, lui che cercava di essere allegro, lo capisco. Perché io ho fatto finta fino a un paio d'ore fa. Io sono rientrato da 2 ore e ho fatto finta. Ho fatto finta! Adesso, la mattina, quando esco, faccio finta. Vado a prendere un caffè e faccio finta. Fumo una sigaretta e faccio finta. Dico 2 parole in una certa maniera e faccio finta. Riprendo a parlare di me, a parlare al mio pubblico, a fare un punto di coesione che si fa alla fine di ogni stagione. Questa volta voglio parlare proprio dell'esperienza di fare radio, probabilmente anche dell'esperienza di essere ascoltatore di un programma radio. Quello che avevo detto poco fa è che la lezione che mi è stata data è che un conduttore radiofonico deve saper dividere il pubblico, e questo in qualche maniera dà serenità di esistenza anche a quelli che mi detestano, e saranno tanti probabilmente. Mi so rendere detestabile, so come rendermi detestabile, non che lo faccia coscientemente o con intento preciso, ma sono perfettamente consapevole delle cose che posso dire, che possono infastidire, possono non collimare con quelle che sono le aspettative di chi mi ascolta. Ma il mio compito non è soddisfare le persone che mi ascoltano, non è farle contente, è di tenerle davanti alla radio. Io esisto soltanto se delle persone mi ascoltano. Se il mio fosse un monologo, non sarebbe un mestiere, non avrebbe nessun senso di esistere, sarebbe velleitario. Quindi io devo avere pari gratitudine verso le persone che mi ascoltano, che mi danno segnali di gradimento, rispetto a quelle che lanciano segnali di veemente disprezzo. Diciamo che una volta il ricettore del polso del pubblico era molto più definito e passava attraverso canali molto più semplici e definiti. C'erano le lettere che gli ascoltatori scrivevano alla direzione della radio, in cui esprimevano la loro indignazione per cose che aveva detto il conduttore. Quindi c'erano le reprimende, c'erano le lavate di capo, c'erano le necessità di chiarimento, di rettifica, c'erano le persone che scrivono delle lettere per chiederti cose e domandarti cose. Se posso darvi un'esperienza che probabilmente non è data dall'essere conosciuta da tutte le persone che ascoltano soltanto la radio, è che c'è una tipologia di ascoltatori molto definibile. Soprattutto la si individua attraverso le forme, le maniere e le tipologie del loro intervento al di fuori della trasmissione, al di là della trasmissione. Poi parliamo di quelli che intervengono in trasmissione, visto che oggi il tema è il mio lavoro e non posso parlare di cose che non conosco, che non pratico. Non posso parlare dei modelli di radio che magari mettono in atto tutti i giorni i miei colleghi. Parlo della mia radio. La mia radio è fondamentalmente basata su un intervento del pubblico. Se il pubblico non interviene, io non sto facendo radio. Oggi mi prendo una vacanza, è una pausa, un momento, uno stop, un'erma, una segnatura. Perché? Perché voglio segnare la fine di un'esperienza, nel senso che finisce una stagione. Avremo ancora una settimana in cui ci sentiremo e parleremo di argomenti che, meno male, sono derivati da questa mia chiacchierata, ma oggi è il vero giorno in cui voglio fare i conti con il mio pubblico e voglio parlare io. Le persone potranno rispondere, hanno canali social all'infinito, hanno dei gruppi specializzati di ascoltatori su Telegram, ad esempio, possono mettere il loro messaggio sulla diretta streaming che va nei social di questo programma, in cui non mi potrete vedere perché mi dovete soltanto ascoltare. Questa è radio a tutti gli effetti, è radio nella sua essenza più pura, e quindi quella cosa molto divertente che appartiene naturalmente a un'evoluzione contemporanea della radio, che io, come tutti i miei colleghi, la gran parte dei miei colleghi, ci esponiamo anche in video al vostro giudizio e al vostro sentire. Oggi non voglio che sia possibile, perché oggi voglio che mi ascoltiate soltanto, perché oggi è una riflessione sulla radio da chi fa radio nei confronti di chi contribuisce a fare radio stando a casa propria, perché è un'equazione, ripeto, indissolubile. Fare radio con partecipazione del pubblico ha senso soltanto se si coinvolge il pubblico a partecipare. Ci sono delle trasmissioni che reputo molto belle, mi danno grande soddisfazione, non perché mi appaghino esteticamente, perché sono trasmissioni in cui ho consapevolezza d'aver detto cose, fatto cose, immaginato cose, discusso e dibattuto di cose che io non conoscevo, o perlomeno di essermi posto dei problemi, delle domande che non mi ponevo all'inizio della trasmissione. Vuoi per l'intervento di un ospite particolarmente felice, ma ultimamente vi rendete conto che di ospiti ne ho sempre pochi, non perché disprezzi il sapere altrui, perché sono molto più interessato nello scovare e nel giocare sulla deriva, nello scovare la persona interessante tra chi mi ascolta. Molto spesso l'ospite specialistico che noi abbiamo cercato, chiamando università, chiamando centri di ricerca, guardando le nostre agende, i nostri database, non trovandolo, perché le nostre trasmissioni sono benedette dall'essere preparate in maniera estemporanea. Il mio scopo, proprio perché la mia trasmissione si chiama Il piacere del dubbio, è pormi il dubbio nel momento in cui una domanda circola. Non mi posso porre adesso il dubbio che domani potrei instillare nelle persone che hanno letto altri giornali, guardato altri telegiornali, assistito ad altri avvenimenti, accadimenti, quindi si pongono altre domande. Quindi il mio è sempre un dubbio fresco, è il mio dubbio rispetto al momento che è più prossimo possibile rispetto al momento in cui voi mi ascoltate. E in questo mio pormi dubbi, dicevo, ho necessità per persone che mi detestino con la stessa veemenza, con la stessa forza, con la stessa irrazionale passione che usano anche quelli che in fondo mi ascoltano da anni, tutti i giorni. Sono quelli che incontrando per strada hai la grande soddisfazione di dire: ma ti sento, ti ascolto dai tempi di Golem, dai tempi di 3131, ti rendi conto che 30 anni della tua vita li hai passati a parlare. Cosa ho fatto nella mia vita? Ho parlato. Ma chi parlavi? Parlava tante persone, ma molte più sono le persone con cui ho parlato rispetto a quelle che ho visto in faccia, quelle con cui ho avuto un contatto diretto, ma milioni di persone sono quelle con cui ho parlato. Voi immaginate, in 30 anni di trasmissione, 30 passa anni, ho cominciato nell'83, di persone con cui ho comunque interloquito senza vederle. Una media di tante persone a puntata, per tante puntate, per tanti anni di stagioni di puntate, che più o meno sono 9 mesi all'anno, 10 mesi all'anno, qualcosa di più con Radio 24, perché alla fine trasmetto 11 mesi all'anno, quindi è un numero enorme di persone. Se io potessi avere davanti improvvisamente l'esercito multiforme delle tante persone con cui ho parlato, e mi capita di osservare un fenomeno strano, che io, essendo limitato nella mia dimensione di memoria umana, nel ricordarmi tutti, li ho però in qualche maniera immagazzinati in una parte profonda, recondita della mia coscienza, e mi vengono improvvisamente in mente quando mi capita di incontrare o di ricevere la lettera di una persona che mi dice: si ricorda lei in quell'anno faceva quell'argomento, parlava di quella cosa, io la chiamai e gli dissi quella cosa. Improvvisamente, non so, come fosse quei bracci meccanici in quelle macchinette e nei parchi di divertimento che vanno a pescare il gadget, il giocattolo, l'orzacchiotto, la sciocchezzuola di plastica. Per pochi soldi si vede il braccio meccanico che pesca e prende una cosa casuale che tu puoi in qualche maniera comandare e ordinare quel braccio, ma poi alla fine è lui che decide. E hai una cosa che apparentemente sembra inconsistente. Quello che hai vinto non vale mai la monetina che hai messo nella macchinetta. Però è qualcosa di singolare, qualcosa che ha richiesto un mix tra azzardo e tra capacità tecnica nel saper cogliere quell'oggetto. Ecco, la testimonianza dell'ascoltatore che si ricorda quello che ho detto è qualcosa che mi riporta in superficie una mia esperienza, proprio in una sorta di percorso fatto di azzardo, perché ogni volta è un azzardo. Io non so le persone con cui parlo chi siano. Il sistema funziona più o meno così, voi lo sapete, esiste una prima scrematura che sono un gruppo di colleghi che riceve le telefonate al numero grande parlatore, al numero verde, e man mano le scheda, dice c'è questa persona che chiama da questa città, deve in sintesi dire questa persona. È un lavoro molto di responsabilità quello di chi riceve le telefonate. Non le chiamate le telefoniste, come ho parlato con la signorina. No, non sono dei professionisti seri, e la loro capacità è quella di avere immediatamente il colpo d'occhio e la capacità professionale, la possibilità di darmi più elementi possibili per capire e decidere se quella è la persona che mi aiuterà in quel momento, ma non a ottenere uno scopo, non a ribadire un mio preconcetto. Questo è sbagliato, vi assicuro, non ho nessuna idea preconcetta, non voglio dimostrare nulla. Certo, ho le mie idee, ho il mio punto di vista, non lo nascondo, non sono neutrale. Tutto ciò che in questa trasmissione accade passa attraverso il filtro della mia individualità, della mia esperienza, dei miei limiti, dei miei difetti, delle mie nefandezze e dei miei splendori. Però tutte le volte che ho una persona che mi porta a riflettere, a volte anche in uno scontro veemente, a volte sono iracondo, a volte posso sembrare tranchant, è una persona che è un tassello fondamentale della mia trasmissione. Mi fermo ancora un attimo e poi nell'ultima parte mi soffermerò in modo molto particolare nell'analisi delle tipologie degli ascoltatori. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Melog. Voi mi assalite come un branco di lupi affamati perché non sopportate la vostra realtà e il vostro modo di essere. Che sareste senza di me? Io vengo qui ogni sera, vi dico come la penso, vi dico le cose in cui credo. Vi dico quello che siete e devo farlo, non ho altra scelta. Io vengo qui e vi distruggo, io abuso di voi, io vi insulto e voi mi dite fallo ancora di più. Ma che vi prende? Perché continuate a telefonarmi? Non voglio sentirvi più, non chiamate! Avevo premesso che avrei analizzato la tipologia degli ascoltatori, cioè chi voi siete ai miei occhi, come mi pongo nei vostri confronti. Non ho nessuna necessità, nessuna voglia né di difendermi né di pararmi da accuse di essere un prevaricatore, un censore, una persona che non fa parlare le persone. Sì, se un po', se posso dare un mio difetto nella mia conduzione radiofonica, che do sulla voce alle persone, anche agli ospiti, ho una mia irrequietezza probabilmente genetica o data da mie accertate neurodiversità, per cui mi annoio quando sento parlare persone, mi viene di saper già come va a finire quello che diranno e quindi mi viene di stimolarle a dire cose diverse rispetto a quelle che stanno per dirmi, perché a me non interessano. Guardate che il dialogo veloce di pochi minuti che faccio con ognuno di voi è un dialogo mirato a qualcosa che a me interessi, e tanto più vi farò parlare tanto più troverò interessante quello che dite. Se lo trovo noioso, lo trovo scontato, lo trovo non funzionale allo sviluppo del pensiero, certo vi do sulla voce. Quali sono le categorie di ascoltatori che preferirei non avere in onda, ma che sono grato quando mi chiamano, perché mi danno modo anche di sperimentarmi e di potermi provare anche nella difficoltà di gestire una telefonata difficile con un ascoltatore in quel momento ha lecito desiderio o diritto di sentirsi protagonista. Il meccanismo siamo noi a proporlo, siamo noi che diciamo telefonateci, siamo noi che prendiamo la vostra telefonata, siamo noi che usiamo il vostro tempo strumentalmente a riempire il nostro tempo di trasmissione. Quindi è un po' come se foste dei figuranti, gli attori comprimari di una grande messa in scena che alla fine il vantaggio è nostro, perché produciamo radio, io in particolare, il mio lavoro, vengo pagato per fare questo lavoro, non sono un missionario, non sono un prete, non sono un benefattore dell'umanità, sono un professionista che fa radio. Quindi cerco di farla nella migliore maniera possibile, cerco di dare all'editore che mi dà modo di fare radio possibilità di avere dalla radio che faccio io un segno di riconoscimento che corrisponda anche a un suo vantaggio, vantaggio editoriale, vantaggio economico, se no altrimenti farei soltanto dei podcast, ma non è il meccanismo che vi sto enunciando, che è un meccanismo che affonda le radici in una radio che nasce negli anni 70 di apertura al pubblico e trova oggi una sua felicissima e modernissima espressione. Se pensate bene, la radio che fate assieme a me è l'espressione sonora del grande sistema dei social network, in cui uno posta un'opinione, un messaggio, un filmato, un modo di dire, e gli altri intervengono liberamente su questo messaggio, su questa opinione. Qual è la differenza? La differenza qui è fortemente segnato il limite della mediazione. Io innanzitutto ho un tempo a disposizione, non posso dare a tutti un tempo illimitato. Nei social network scrivete quanto volete, parlate quanto volete, postate tutto quello che volete. Non c'è limite allo spazio e limite al tempo. Qui c'è il limite al tempo che io so esattamente, fra 5 minuti io devo dare la linea, ci sarà la sigla finale, poi ci sarà il giornale radio, ci saranno gli altri programmi. Quindi noi siamo una gabbia ben definita, noi abbiamo sempre l'orologio in mano. Sappiamo esattamente che abbiamo, io almeno personalmente, ho 3 chiusure. E questo è il tempo, questa è la scansione del tempo che io posso usare per fare rappresentazione, spettacolo, informazione, intrattenimento, interesse nei confronti di chi mi ascolta. Quindi io capisco subito quando c'è un ascoltatore che è funzionale. Funzionale quando porta un contributo originale al dibattito, quando è come se mi si aprisse una finestra e ho degli elementi che io nemmeno immaginavo. E se non li immaginavo io, se non avevo pensato nella preparazione del programma, se non avevo un ospite capace di darmi quell'apertura, me la dà un ascoltatore, per me è una scoperta fantastica. Vuol dire che funziona quel principio ideale, ipotetico, che mosse la rete sin dai suoi primordi, che in realtà avere una rete significa avere a disposizione un'infinità di saperi individuali che sono messi a tesoro e a vantaggio e a maggiore profitto di chi vuole anche mettere la sua parte in questa rete di esperienza di vita, di punto di osservazione. Quindi gli ascoltatori che preferisco sono quelli che portano una vera, reale, concreta testimonianza, che se mi danno un'opinione corroborata da strumenti concreti, razionali. Mi interessa poco sapere come la pensa una persona, come la pensa astrattamente, perché non è funzionale se non quando faccio una mia sottomodalità di trasmissione, quella del sondaggio. Allora sì, allora io pongo già una gabbia di 3 possibili letture rispetto a un fenomeno e mi interessa sapere come la pensano le persone, ma mi interessa che articolino il loro pensare, non sia soltanto frutto di un pregiudizio. L'ascoltatore che in realtà meno apprezzo è la persona che usa la radio come si usa proprio un social network per l'affermazione della propria epica individuale. Deve dire qualcosa per lui importantissimo, anzi il peggior ascoltatore è quello che è convinto che stia in quel momento rompendo con una tecnica di aggiramento o di azione comando una stretta rete di censura e quindi finalmente gliela può dire lui. Guardate, lo dico con onestà, non ho mai conosciuto una radio libera come quella in cui sto lavorando, in cui nessuno dice ai conduttori quello che devono dire e quello che devono fare, in cui molto raramente si viene ripresi, ma solamente quando diciamo qualcosa che va penalmente a toccare delle sensibilità, dei livelli che abbiamo sbagliato a toccare, ma fa parte della nostra deontologia professionale. Quindi nessuno ci impone di dire quello che diciamo, non siamo obbligati a fare il gioco di qualcuno o di qualcun altro. La mattina ognuno di noi si sveglia, pensa quello che della realtà lo colpisce maggiormente e ne fa oggetto di trasmissione radiofonica. Quindi se mai interrompo le persone, non le faccio parlare o sempre le voglio censurare, è semplicemente non perdo il preziosissimo tempo che ho a disposizione per fare il lavoro che ho cercato sinteticamente di descrivervi, da persone che cercano in quel momento semplicemente una sorta di luogo di espressione del loro ego, della loro individualità, che non mi danno nulla, non mi accrescono nulla, confezionano il banale, confezionano lo scontato, confezionano il luogo comune. Per avere la soddisfazione, il sollievo, la libertà, di togliersi anche questo tipo di soddisfazione, di dire quello che si pensa, anche ammesso che sia un luogo comune, esistono maniere infinitamente variegate piuttosto che portare via tempo a un programma radiofonico. Uno può andare ai giardinetti, salire su una cassetta della frutta e declamare il proprio punto di vista, magari trova anche delle persone disposte ad ascoltarlo, o può naturalmente iscriversi a un social network e vomitare tutto quello che vuole, dire quello che vuole, anzi, più confezionerà luoghi comuni, ugualmente più avrà seguaci. Questa è una radio che cerca in qualche maniera di premiare l'originalità del pensiero, il coraggio e l'intrepidezza di esprimere pensieri che non sono logorati dall'abuso che ne viene fatto ogni giorno. E ho cercato per quanto possibile anch'io, mettendomi in gioco, di spiegarvi perché faccio radio e perché sono grato a chi ogni giorno mi ascolta alla radio. Alla prossima.